Letture di Radio 24. Le tre minestre, il nuovo libro di Andrea Vitali, è un racconto autobiografico ambientato negli anni 50, che ha per protagoniste le tre zie che hanno accompagnato l'infanzia dello scrittore. Tutte e tre esperte in economia domestica, tanto che Vitali le ha ribattezzate le tre ministre. Colomba, ministro dell'agricoltura, che aveva il compito di accudire l'orto. Paola, ministro degli esteri, preposta ai rapporti con i parenti e con i vicini. E Cristina, ministro dell'interno, adibita alle faccende domestiche e alla cucina. Una zia particolarmente golosa, come racconta Vitali. Una certa predilezione per i cibi più gustosi e saporiti, quelli che generalmente i medici proibiscono agli altri per consumarli poi nel chiuso delle proprie case, era una delle peculiari caratteristiche del ministro degli interni. Tale dote si sposava perfettamente con un altro tratto caratteriale, indispensabile tra l'altro per chi si occupa di affari istituzionali, la lungimiranza. Da tale sinergia derivavano, tanto per fare un esempio, le sue famose bistecche tascabili, delle quali ho poi ritrovato traccia soltanto durante il servizio militare. Per giungere a un risultato del genere, la zia Cristina, dopo aver provveduto ai necessari rifornimenti di casa, avviava l'operazione di preparazione delle bistecche cominciando con il mettere la pentola con una discreta quantità di burro sulla stufa a legna. Secondo gli storici del regno delle tre minestre, ciò avveniva non oltre le 8:30 del mattino e quando il primo burro cominciava a sfrigolare, altro ne veniva aggiunto e poi altro ancora, al fine di ottenere un bagno di circa 2 centimetri di colesterolica densità. A quel punto, potevano essere all'incirca alle 10 del mattino, le bistecche venivano calate e, passaggio fondamentale, dimenticate nella pentola che continuava a crogiolarsi al calduccio della stufa, emettendo borborigmi di variabile intensità. Gli osservatori del fenomeno, verso le 11 del mattino, potevano notare come il bagno di burro fosse ormai ridotto a una poltiglia di aspetto catramoso, mentre le bistecche, mutate al pari di fogli di carta copiativa, cominciavano a dare segni di insofferenza che si esprimevano in spasmi preagonici, dapprima seguiti da un lento ripiegamento su se stesse, che ne dichiarava il decesso, trasformandosi poi in oggetti dalla forma quadrata e dalla consistenza marmorea, divenendo atte al comodo trasporto tascabile e a un consumo non necessariamente legato all'ora di pranzo e cena, quale poteva essere la carne secca degli indiani del Far West. Peraltro, sulla materia costituente di bistecche trasformate in tal guisa, sono ancora in corso studi di fisica e chimica. Una pari abilità culinaria, che non trova traccia in alcun testo di gastronomia, la zia Cristina la dispiegava nel cucinare quello che, sine ulla dubitazione, posso affermare sia stato il suo piatto più famoso. Erano i fegatini di pollo e coniglio, che sostanzialmente venivano cucinati come le bistecche di cui sopra, con però alcune importanti variazioni. Gli orari di cottura più o meno coincidevano. La differenza riguardava la quantità di burro utilizzata, che doveva essere triplicata. I fegatini, di pollo ma anche di coniglio, tagliati in piccoli quadratini, dovevano infatti morire di morte lenta dentro un bagno di burro che veniva continuamente rabboccato, sino a che una misteriosa voce dichiarava terminata l'operazione. Da quel momento in avanti, i fegatini venivano abbandonati al loro destino. Per un'ora buona, recitavano le loro preghiere mentre lentamente la coltre di burro si andava a esaurire per trasformarsi in una sorta di asfalto. A fine operazione i fegatini avevano assunto l'aspetto degli asabesi e il tutto era pronto per essere consumato con la compagnia di una polenta calda appena tolta dal paiolo. È una delle cose più buone che mi sia mai capitato di mangiare. La puccia che restava sul fondo del padellino, intendo. I fegatini, più che masticati, andavano lasciati sciogliere in bocca. Ma la puccia, densa, collosa, filante, chiedeva di essere raccolta direttamente dal fondo della padella, con l'utilizzo del pane, e una volta a contatto con le mucose delle fauci, sprigionava tutta la sua velenosa bontà. È forse superfluo sottolineare come tutti i partecipanti al lussurioso banchetto, compreso il sottoscritto, sapessero che in quel godimento si celava un che di peccaminoso, ragione per la quale il ministro degli esteri, dopo averne pure lei goduto, dettava la regola dell'espiazione, che consisteva in un decadente pancottino serale, dentro il quale però, e di nascosto,

Ce n'erano due ciotole laccate, piene fin quasi all'orlo. Non avevo mai mangiato nulla di così buono in vita mia. Quella prima colazione mi resterà per sempre impressa nella memoria. È buffo dirlo, ma è stata la migliore colazione dei miei primi 40 anni. Mi chiedo se sia giusto, ho detto a un certo punto dopo aver preso un sorso di tè, gustare del cibo così unico e squisito proprio adesso, adesso che ci stiamo lasciando per sempre. Quella colazione era il nostro ultimo pasto insieme. Nell'istante in cui avremmo mangiato l'ultimo boccone e ci saremmo alzati da tavola, non avremmo avuto più nulla da condividere. All'improvviso, tutto sarebbe finito. Lo ho accompagnato con lo sguardo fino alla porta d'ingresso della pensione, dentro il mio cuore. Ho ripreso a sfogliare il quaderno dei clienti della pensione e a un certo punto gli occhi mi si sono posati su alcune parole scritte con una grafia che mi era familiare. Non c'erano dubbi. Era la grafia di Yamashita. Quelle parole le aveva scritte lui circa 1 anno e mezzo prima, in occasione della nostra precedente venuta. È la prima volta che la mia fidanzata e io alloggiamo qui. Dopo cena siamo rientrate in stanza e lei si è subito addormentata. Non sapendo cos'altro fare, sono venuto qui e mi sono messo a scrivere in questo quaderno. Torneremo senz'altro in futuro, nel periodo dei Matsutake. Forse per allora la mia fidanzata e io ci saremo già sposati e magari avremo anche dei figli. Saremo una bella famiglia felice. E torneremo qui tutti insieme. Era forse ubriaco quando aveva scritto quelle cose. Mi ha sempre detto che non voleva sposarsi, che non voleva avere figli. In quel quaderno esisteva un altro Yamashita, un uomo che non conoscevo, ma ormai era troppo tardi. Le nostre strade si erano separate. Sono uscita fuori in Yukata e ho respirato a pieni polmoni. Anche la prima aria che ho respirato esattamente 40 anni fa, ho pensato, era così fredda e umida. E intanto ha cominciato a piovere a dirotto. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Ito Ogawa, La cena degli addii. Neri Pozza Editore, 174 pagine, 14,50 euro.